Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, bentornati. Giustificazioni realiste sarà il primo argomento con cui vi intratterremo, nonché il programma prevede di parlare di fisici tedeschi, no, anzi, fisici atomici e postini tedeschi, nonché di araldica di quartiere.